resolution's adoption, the UK representative urged the warring parties to act on this united international call for peace. Sono le mezzanotte e due minuti in realtà di sabato 9 marzo 2024. Io non ho registrato nulla ieri, che era l'8 marzo, perché è un giorno in cui sono anche andato a rivedermi antichi pendodeliri che si intitolavano 8 marzo, in cui si parlava ovviamente del gender gap, insomma di questioni che tornano d'attualità in modo un po' automatico, direi come un riflesso condizionato in questa ricorrenza. Ed erano abbastanza fallimentari. Io mi sono reso conto che forse la cosa migliore l'8 marzo, per quelli come me, diciamo, che fanno ancora la pipì in piedi, ma forse sarebbe educato imparare a farla da seduti, forse tacere per 24 ore, ecco, perché sono sempre molto maldestri i tentativi di dire qualcosa. E poi una riflessione che ho fatto è: ma davvero è necessario far sapere il proprio pensiero a tutti, imporlo? Non è forse questa una delle pratiche più drammaticamente patriarcali? Non è forse, per esempio, un podcast come questo una cosa che potrebbe fare solo un maschio? Cioè pensare che ci sia qualcuno davvero interessato a quello che dice una persona comune in un microfono tutti i giorni, tra l'altro, no? E poi, vabbè, naturalmente tutto questo serve a farci fare un passo indietro di qualsiasi tipo. Io mi limito in questo caso a tacere, magari, in quella ricorrenza, e soltanto due minuti dopo, quando poi è già il 9 marzo, ricordarmi che questo è un diario, questo è un luogo dove parlo più che altro per prendere appunti per me stesso, e poi se c'è anche qualcuno che risponde è davvero il benvenuto.